Benvenuti a tutti. Puntata numero 8 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Iniziamo subito con il mashup della settimana. Partiamo con il 3 gennaio. Isaiah Thomas ne mette 29 nella vittoria dei Celtics contro i Jazz. DeMarcus Cousins 31 nella vittoria contro i Denver Nuggets di un Gallinari da 23 punti. 32 punti anche per Paul George nella vittoria dei Pacers contro i Pistons. La partita però più interessante della notte è quella tra Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, due squadre giovani e piene di prospetti futuribili. Pessima notte per Andrew Wiggins con 2 su 15 dal campo, ci pensa però uno Zach LaVine da 28 punti e il solito Karl Anthony Towns da 23 punti e 15 rimbalzi a tener viva Minnesota. Dall'altra parte invece Iasova va con 19 punti e il solito Joel Embiid 25 punti e 8 rimbalzi. Il probabile rookie dell'anno è al centro di una vera e propria propaganda a suo favore per votarlo in quintetto all'All-Star Game, ma con i parziali momentanei risulta fuori dai primi 5 ad est. Sull'88-91 per i Sixers, clamorosa tripla del pareggio per mano di Ricky Rubio, clamorosa perché la point guard di Minnesota non è certo un tiratore rinomato da dietro l'arco. Resta poco più di un secondo da giocare a questo punto per le speranze dei Sixers. Direttamente dalla rimessa, il lob è per Covington che segna al volo il tiro della vittoria. Finisce 93-91 per i Philadelphia 76ers. Andiamo avanti, 4 gennaio. Russell Westbrook, al solito, chiude con 33 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Ma i Thunders perdono contro gli Hornets di Kemba Walker. 31 punti e 8 rimbalzi con 7 assist anche per LeBron James, malgrado la sconfitta dei suoi Cleveland Cavaliers contro i Bulls a Chicago per 106-94. Golden State batte in modo poco brillante i Portland Trail Blazers ancora senza Damian Lillard, con 35 punti però di McCallum. Partita convincente di Curry con 35 punti e 12 su 25 dal campo, ma con 13 tiri da 3 segnandone soltanto 5. 30 punti anche per Kevin Durant. Partita della notte invece al Madison Square Garden tra Milwaukee Bucks e New York Knicks. Derrick Rose illumina la partita con una schiacciata bimane dopo aver preso una linea di fondo a velocità stratosferica come ai vecchi tempi dei Bulls e chiude con 15 punti. Gara convincente per Noah con 16 rimbalzi e 8 punti. Solito Carmelo Anthony da 30 punti, ma dall'altra parte è la notte della consacrazione definitiva per Giannis Antetokounmpo. Partitone non tanto per le statistiche che comunque dicono tanto, 27 punti e 13 rimbalzi, quanto per due giocate di Antetokounmpo nell'ultimo quarto. Una schiacciata in contropiede dove avvia il terzo tempo quasi da centrocampo e stacca un passo dentro la linea di tiro libero. E poi l'azione decisiva per il risultato finale. Poco più di 8 secondi sul cronometro, Milwaukee sotto di 2 e rimessa nella propria metà campo. Palla a Giannis che lavora spalle a canestro contro Lance Thomas. Tutti lo aspettano, step back, fadeaway jumper sulla sirena, solo rete. 105-104 per i Bucks. 5 gennaio, si sfidano Russell Westbrook e James Harden e quindi conviene sempre tenere d'occhio la partita tra questi due ex compagni di squadra, oggi rivali ad ovest. Westbrook chiude con 49 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 8 su 15 da 3. Il barbone invece con 26 punti, 8 rimbalzi e 12 assist. La differenza la fa il supporting cast di Houston, molto più squadra. Tutto il quintetto in doppia cifra, 22 punti di Gordon dalla panchina. Finale in volata sul 116 pari, rimessa a Houston nelle sapienti mani di Harden che pesca con uno splendido passaggio ilario. Il suo tentativo di schiacciata viene terminato con un fallo a 7 decimi di secondo dalla fine. 2 su 2 dalla lunetta e dall'altra parte il tentativo sulla sirena di Canter non va a buon fine. Houston vince 118-116. 6 gennaio, rematch a distanza di poche ore tra Knicks e Bucks, stavolta con un Kristaps Porzingis in campo e si vede per i Knicks. Il lettone segna 24 punti e dà vita ad uno splendido duello con Giannis Antetokounmpo. Carmelo Anthony chiude con 26 punti e consegna la bellezza di 10 assist. Dall'altra parte, 25 punti di Antetokounmpo, 25 per Jabari Parker, 19 per Greg Monroe, ma non bastano. Vendetta servita, i Knicks vincono 116-119. Nella stessa notte, bella prestazione del duo James Irving nella vittoria dei Cavs sui derelitti Brooklyn Nets. Ci sono 36 punti, 9 rimbalzi e 6 assist per James, 32 punti per Kyrie, 17 con 13 rimbalzi per Kevin Love. La partita della notte però l'abbiamo potuta vedere anche su Sky e si tratta della sfida tra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Clamorosa lezione di cuore e se vogliamo anche di basket dei Grizzlies alla Oracle Arena con 27 clamorosi punti dalla panchina di Zach Randolph, 27 per Conley, 23 per Marc Gasol. Dall'altra parte non bastano i 40 di Steph Curry e i 27 di Durant, o meglio, basterebbero perché per tre quarti gli Warriors dominano letteralmente la partita raggiungendo anche 24 punti di vantaggio. Nell'ultimo quarto però smettono praticamente di giocare avvallando la rimonta di Memphis guidata dal cuore di Tony Allen e dal tiro del supplementare quasi allo scadere di Conley. Il parziale del quarto periodo è clamorosamente a vantaggio dei Grizzlies, 32-13. La gestione del possesso che avrebbe chiuso la gara da parte degli Warriors genera il malcontento piuttosto palese di Draymond Green. Una pessima tripla di Curry sbagliata, un rimbalzo offensivo, palla a Durant che sceglie come soluzione un'altra improbabile tripla dalla lunghissima distanza e finisce fuori. Dopo il pareggio di Conley, già detto, il tempo è dalla parte di Golden State, ma Curry decide ancora di fare tutto da solo e di indietreggiare per scoccare un improbabile tiro da oltre i 9 metri con tutta la difesa addosso, che ovviamente finisce fuori. Nei supplementari, Gasol e Zach Randolph non sbagliano quasi un tiro. Memphis si porta a casa una partita clamorosa in trasferta e in rimonta. 7 gennaio, 17esima tripla doppia stagionale per il solito Russell Westbrook. Stavolta OKC vince e lui chiude con 32 punti, 17 rimbalzi e 11 assist contro i poveri Denver Nuggets. Celtics 113, Pelicans 108. La sfida è tutta tra i due giocatori più rappresentativi delle due squadre. Ci sono 38 punti per Isaiah Thomas e 36 con 15 rimbalzi per Anthony Davis. I Bulls battono invece i Raptors 123-118. Jimmy Butler, che in questo momento è al centro di insistenti voci di mercato e lo vorrebbero lontano da Chicago, gioca un'ennesima partita strepitosa. Chiude con 42 punti, 10 rimbalzi e la tripla della sicurezza presa in step back a pochi secondi dalla fine. 20 punti anche per Dwayne Wade, 17 per McDermott proveniente dalla panchina. Dall'altra parte non bastano 36 di DeRozan e 27 con 12 assist di Kyle Lowry. 8 gennaio, una prestazione su tutte da sottolineare, quella di Chris Paul, che nella vittoria dei Clippers contro i Miami Heat realizza 19 punti, serve 18 assist, cattura 6 rimbalzi e perde un solo pallone, tutto questo in 29 minuti. Tra i Clippers ci sono anche 25 punti per JJ Redick e 19 dalla panchina di Moss Bates. Nella sfida invece a punteggi alti tra Houston e Toronto, alla meglio il team del Barba grazie a una prestazione di quest'ultimo ancora da incorniciare. Tripla doppia da 40 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. Dall'altra parte ancora niente da fare per il solito DeRozan, che chiude con 36 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Cavs e Warriors l'8 gennaio battono rispettivamente Suns e Kings, con LeBron e Durant da 28 ciascuno, con Irving da 27 punti, Steph Curry da 30. 9 di gennaio, 3 sole partite nella notte, Anthony Davis ne mette 40 e cattura 18 rimbalzi e stavolta i Pelicans vincono contro i Knicks, che sono piuttosto in crisi di identità e soprattutto di gioco in questo periodo, con un Kristaps Porzingis da 3 su 13 dal campo e un Carmelo Anthony espulso per sommatoria di flagrant alla fine del terzo quarto. Derrick Rose non si presenta al Garden con la squadra, pare a causa di problemi familiari. Tra Westbrook e Dwayne Wade alla meglio il Thunder, che manca la tripla doppia per un solo rimbalzo, chiudendo con 9, mettendo anche a segno 21 punti e servendo 14 assist. 22 per Stephen Adams, 20 per Kanter. Tra i Bulls, un Jimmy Butler da 1 punto in 29 minuti con 0 su 6 dal campo, vittima pare di un'influenza. 22 punti per Wade e 15 per Carter Williams. Rajon Rondo non mette piede in campo. Infine, i Minnesota Timberwolves battono i Mavs, tra i quali c'è da segnalare finalmente un Dirk Nowitzki da 26 punti e un Harrison Barnes da 30. Karl Anthony Towns invece chiude con 34 e 11 rimbalzi. 10 gennaio, di cose da segnalare ce ne sono abbastanza. C'è un giocatore che avanza grandissimi passi verso il titolo di MVP, a rappresentanza di una squadra che è sempre più la rivelazione della stagione. Ne abbiamo già parlato, ne parleremo, James Harden e i suoi Houston Rockets. Terza squadra ad ovest in questo momento, terzo miglior record della Lega al momento. Battono gli Hornets 121-114 con un'ennesima tripla doppia del Barbone con altri 40 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Harden in questo momento è il terzo marcatore della Lega, il primo negli assist e cattura una media di 8 rimbalzi a partita. Houston è seconda per punti segnati e per assist di squadra, dietro in entrambe le categorie solo ai Golden State Warriors. La top performance della notte però, se si parla di punti realizzati, è di DeMar DeRozan con 41 punti e 15 rimbalzi nella vittoria dei Raptors sui Celtics di Isaiah Thomas, che chiude con 27 punti. Utah batte Cleveland in casa 192 con 28 punti di Gordon Hayward. I Bucks invece battono gli Spurs malgrado un Antetokounmpo febbricitante che gioca appena 9 minuti senza realizzare un punto. Chicago invece, senza Wade e Butler, cede alla fine a Washington grazie al tiro della vittoria di John Wall a 5 secondi dalla fine. Wall chiuderà con 26 punti e 15 assist. Rapidamente seguiamo con alcuni temi della settimana. Come saprete, siamo entrati a capofitto nei rumors di mercato. Tra i possibili scenari, presunte trade e illazioni partigiani, Kyle Korver, ricordiamolo, tiratore micidiale, passa da Atlanta ai campioni in carica dei Cleveland Cavaliers ed ha esordito stanotte segnando i suoi primi 2 punti. super mossa probabilmente per Cleveland, visto che Korver rappresenta un giocatore che può potenzialmente essere decisivo fin da subito, anche toccando 3 palloni a partita ad esempio. LeBron ha pubblicamente dichiarato che a Cleveland servirebbe pure un play come cambio per Kyrie Irving. I rumors parlano tra gli altri di un possibile approdo di Rajan Rondo in rotta con i Chicago Bulls, oppure di Mario Chalmers, vecchio amico di LeBron. Addirittura si parla anche di José Calderón in caso venisse tagliato dai Los Angeles Lakers. Sul piede di partenza appare anche Paul Millsap di Atlanta, altro giocatore che potrebbe portare valori importanti ed eventuali bonus per aspiranti contender al titolo finale, anche se più o meno ufficialmente pare essere stato tolto dal mercato. Però la deadline è ancora lontanissima, staremo a vedere. Stesso destino probabile anche per Brook Lopez, il legnoso ma produttivo centro dei Brooklyn Nets, che viaggia con 20 punti di media partita. Potrebbe essere ceduto da Brooklyn in cambio di scelte nella lottery per poter finalmente ricostruire. Anche Denver sembra voler smantellare la squadra e tra i possibili partenti ci sono sia Kenneth Farid che il nostro Danilo Gallinari. Auguriamoci di vederlo cambiare casacca per poter almeno provare a giocare i playoff. Infine, Tyson Chandler sembra sempre più nel mirino dei Portland Trail Blazers, però come detto ancora c'è molto tempo per la chiusura di mercato, vediamo se ci saranno sorprese ulteriori o se queste possibili rumors avranno uno sviluppo. Occhio anche alle sorprese rispetto all'All-Star Game, perché in questo momento Zaza Pachulia è il secondo più votato nel frontcourt ad Ovest. Incredibile, non credo ci sia altro da dire se non che l'NBA, per porre una toppa su questa possibilità, ha deciso un nuovo valore nel calcolo dell'incidenza del pubblico nel voto degli starters. I voti dei fans valgono per il 50%, il 25% invece sarà responsabilità dei media e il 25% dei voti degli altri giocatori della Lega. Insomma, pare proprio una legge anti-Pachulia per evitare che questo simpatico personaggio, evidentemente ben voluto nel mondo degli appassionati di NBA, possa veramente iniziare in quintetto all'All-Star Game con l'Ovest. Andiamo avanti, speriamo rapidamente. Per la rimembranza della settimana parliamo di una squadra che non c'è più, i Seattle Supersonics. Non certo una perdita da poco. Hanno fatto la storia della Lega vincendo anche un campionato NBA nel 1979. Tra l'altro rematch della finale dell'anno precedente che venne persa dai Sonics in prima battuta contro i Washington Bullets di Wes Unseld. Nel 1979 invece i Sonics vincono, allenati da Lenny Wilkins, con Dennis Johnson che vinse il premio di MVP della finale, Jack Sima, Gus Williams e altre leggende del club. Ma tralasciamo quegli anni d'oro e anche i seguenti anni 80 dei Sonics per concentrarci sulla squadra di Seattle negli anni 90, una decade che vide i Sonics protagonisti assoluti della Lega, una delle tante squadre di belle speranze, forte ma incomplete perché comunque alla fine prive di anelli da mettersi al dito. Due draft fondamentali, 1989 e 1990. Nel primo, Seattle prende un ragazzone di belle speranze che non aveva mai giocato neanche un minuto al college, tale Sean Kemp. Nel secondo, invece, un playmakerino che apparentemente pare destinato a fare la riserva in un ruolo in quel momento già coperto, Gary Payton. Tempo di ambientarsi e il dynamic duo si trova diretto in panchina da tale George Karl. Arriverà poi da Indiana anche il tedesco Detlef Schrems, già All-Star e perfetto terzo violino per la squadra. Nella stagione 92-93 i Sonics registrano un record stagionale di 55 vinte e 27 perse e perdono solo dopo 7 partite contro i Phoenix Suns di Charles Barkley nelle finali della Western Conference. L'anno seguente quindi tutti li aspettano, ad Ovest dominano e dominano a tratti anche la Lega. È loro il miglior record della regular season con 63-19, ma vengono clamorosamente eliminati al primo turno dei playoff dai giovanissimi Denver Nuggets di Dikembe Mutombo e LaPhonso Ellis, tra gli altri, dopo aver condotto la serie per 2-0 e sciogliendosi come neve al sole nella decisiva e casalinga gara 6. Un upset tra i più incredibili della storia dell'NBA. L'anno seguente, stesso copione, stagione da 57 vinte e 25 perse, eliminazione dopo 4 partite al primo turno contro gli allora giovanissimi e incompletissimi Los Angeles Lakers in fase di pura ricostruzione. Si arriva quindi alla stagione 95-96 e nessuno è pronto a scommettere una lira sui Seattle Sonics, anche dopo l'ennesima strepitosa regular season che si chiude secondi solo ai Chicago Bulls delle 72 vittorie, con un record da 64 vinte e 18 perse. diverse. Nel frattempo, alla triade suddetta si sono aggiunti giocatori importanti di esperienza e di qualità come Sam Perkins e la guardia Ersie Hawkins. Il tratto distintivo di quella squadra era la difesa, in particolare la pressione sui portatori di palla e i raddoppi, grazie ai talenti di Payton, all'esperienza del veterano guida spirituale Nate McMillan e varie riserve che facevano ampiamente il loro dovere, come ad esempio David Wingate. Al primo turno di playoff, Seattle però perde gara 2 in casa contro i Sacramento Kings. Tutta la NBA grida, ci risiamo. Invece i Sonics riescono a riprendersi, vincono la serie, spazzeranno poi via gli Houston Rockets, in quel momento campioni in carica, e annienteranno gli Utah Jazz in 7 splendide partite volando in finale. Qui li aspettano Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman, i Bulls più forti di sempre. Le prime due gare, malgrado uno Sean Kemp strepitoso che pare giunto alla maturazione definitiva come giocatore, le vincono i Bulls. La terza partita alla Key Arena, quella che poteva essere decisiva per cambiare la serie, i Bulls la stravincono. Delusione, Bulls avanti 3-0, si teme lo sweep per i Sonics, che invece ritornano in gara 4 e in gara 5 con due ottime vittorie. La serie però si chiuderà in gara 6, la fame di vittoria dei Bulls sarà stata troppo forte, troppo grande anche per i talenti dei Sonics. Comunque, squadra di ottime speranze in quel momento, la maturazione di Kemp aveva dato ottimi spunti per il futuro, Payton sempre più dominante, Seattle era attesa alla prova decisiva di maturazione per la stagione seguente. Invece, Seattle decide la stagione seguente di dare un contratto piuttosto principesco a tale Jim McElvain, pessimo centro che sembrava rappresentare una speranza al momento proveniente dai Washington Bullets. Si incazza come una iena il signor Sean Kemp, che si considera sottopagato a maggior ragione dopo le ottime prestazioni della finale precedente. Qualcosa si rompe nello spogliatoio, Seattle non riesce a tornare in finale. Gli anni seguenti continueranno ad essere vissuti come protagonista assoluta della Western Conference, ma nel frattempo partirà Sean Kemp in uno scambio che portò ai Sonics Vin Baker. Se ne andrà poi in seguito anche Gary Payton alla ricerca di un titolo che arriverà qualche anno dopo a Miami. Arriveranno in maglia Sonics Ray Allen e poi dal draft tale Kevin Durant. Una stagione sola però, perché nel 2006, dopo molti sforzi infruttuosi per persuadere lo stato di Washington ad elargire nuovi fondi per migliorare lo stato di Seattle, la Key Arena, la proprietà del gruppo Supersonics decide di cedere la squadra a il gruppo Professional Basketball LLC, un gruppo di investimenti guidato dall'imprenditore di Oklahoma City, Clayton Bennett. Nella cessione compresa anche la squadra di basket della WNBA, le Seattle Storms. In quel momento si crede che comunque il club possa rimanere a Seattle. In realtà il nuovo proprietario decide di spostare immediatamente la squadra a Oklahoma City. Così i Seattle Supersonics, che furono quelli di Kemp, Payton, ma anche quelli di Sigma e del titolo del 1979, diventano gli Oklahoma City Thunders. Cambiano colori sociali, cambia città, cambia nome. Niente resta nella storia dell'NBA, o perlomeno nel presente dell'NBA, legato alla città di Seattle, legato alla Rainy City. Tante voci si sono susseguite negli anni di un probabile ritorno di Seattle nel basket professionistico che conta. Sembrava che potessero spostare i Sacramento Kings attraverso un'acquisizione a Seattle per riportare appunto l'NBA nella città dello stato di Washington. Non è accaduto, Seattle Supersonics restano nella storia, però effettivamente non esistono più come franchigia, non esiste più il basket a Seattle, non si sono potuti ritirare i numeri di Kemp e Payton, due leggende del club, e questa storia finisce quindi in modo molto triste, soprattutto perché, almeno dal mio punto di vista personale, io ero un grandissimo fan di Seattle Sonics, li ho seguiti veramente tanto e ero veramente tifosissimo, soprattutto appunto di Sean Kemp. Benissimo, chiudiamo qua, siamo andati veramente oltre anche questa settimana. Vi ricordo il nostro blog medium.com/NBA Week, dove da venerdì mattina potete trovare il blog post con tutti i video delle cose di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Questa trasmissione la potrete sentire come tutti i giovedì sera in diretta streaming alle 21.30 su Radio Big World, oppure a partire dalla mattina dopo sul canale YouTube di Belli 13 e poi in streaming nel SoundCloud di Radio Big World. Ci sentiamo la prossima settimana.